siamo un patto, oh oh. Dammi la mano, oh oh. Poi ci lanciamo, oh oh. Dal decimo piano, oh oh. E questa stanza, ah ah. Diventa una goccia, ah ah. Rimasta da sola, ah ah. Sulle tue ginocchia, ah ah. Tanto so volare, il fuoco sul mare, non ti preoccupare, paura non ne ho avuta mai. Come una nota ti sento, sembra che parli muovendo solo i capelli nel vento, sembra che bruci da dentro. Come una nota ti sento, sembra che parli muovendo solo i capelli nel vento, ti salverò da un incendio. Non credo alle favole, non le scrivo pensando a te. Le mille una notte, ed una su questo parquet. Sei quel che mi pare, livello finale, non ti preoccupare, io so già come finirà. Come una nota ti sento, sembra che parli muovendo solo i capelli nel vento, sembra che bruci da dentro. Come una nota ti sento, sembra che parli muovendo solo i capelli nel vento, ti salverò da un incendio. Fumo e la cenere, con te, l'unica in cui voglio credere, con te, l'unica in cui voglio credere, con te, con te, con te. Tra il fumo e la cenere, con te, l'unica in cui voglio credere, con te, l'unica in cui.